J16, questa è la mia vita. Non mi sento un messia, ho avuto problemi di dislessia. Questa è la mia filosofia, questa non è autobiografia. Nella mia vita c'è sempre stata allegria. Fino da piccolo avevo molta fantasia. Volevo lasciare una scia, cambiare la critica della gente che non capisce niente. Nella mia mente mi sento un demente in questo mondo che ti giudica sempre. La gente si sente superiore di ogni razza esistente nel mondo. Ogni cosa che penso te la sparo in un secondo. Come se dentro c'è uno sfogo che è nascosto da tempo. Ogni giorno canto un nuovo verso e da quando scrivo mi sento diverso. Questo è il mio universo. All'inizio mi sentivo depresso, credevo che fuori era tutto spento. Ma dopo che ho iniziato a scrivere un testo mi è sembrato un mondo nuovo. E le mie parole sono uscite fuori grazie ai miei ricordi. E ai miei sogni che ho creduto fino ad oggi non sono mai morti. Questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita. Eppure cerco di crearmi un futuro in questo mondo che è tutto tondo, dove non ho ancora concluso il mio scopo, che ancora è lontano ma ce la posso fare. C'è ancora tanto tempo per pensare, non come altra gente che si fa giudicare dagli altri e si ferma. E non penso più di avverare i propri sogni, ma è sbagliato e non mi fermo. A me non me ne frega proprio niente di quello che potrebbe dire la gente. Possono dire che sono matto, ma del loro giudizio non me ne frega proprio un cazzo. Anche se sarà un ostacolo prima o poi lo passo. Anche se ho bisogno di cambiare stato o di commettere un reato, io non mi fermo, questo è chiaro. Le mie rime non sono finte, se voglio le tiro come spine. Ricordo e scriverò sopra testi, anche se ci sarà una tonna di carbone a denti. E continuerò verso il mio cammino, non mi fermo nel bacino. Questo è il mio desiderio fino a quando sono bambino. Questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la mia vita, questa è la